faccio il nome e cognome, invece quella persona già non sa come fare, è stata abita vicino alla pizzeria e cosa poco buttare nel palazzo.